Sono Romano Prodi. Guidare è divertente ed è bello, ma oltre al cuore mettici anche la testa. Non stancarti, sii prudente e buon viaggio. Campagna a cura del governo. Ministero dei Trasporti.